Ad alta voce. Tony Servillo legge Il giorno del giudizio di Salvatore Satta. Col ritorno della buona stagione, donna Vincenza si era fatta trasportare il suo seggiolone di paglia sotto il pergolato della corte e là trascorreva immobile la sua giornata. Quel che aveva temuto tutta la vita col susseguirsi di quei figli maschi si era avverato. Era rimasta sola nel grande sepolcro della casa. La noia cominciava ad invaderla. Il rimuginio dei pensieri che aveva occupato la sua esistenza, il ricordo di un breve passato felice, la progressiva distruzione di se stessa, si era assopito come i suoi occhi si erano velati. La casa di cui era stata, quasi per una suprema ironia, la padrona, cominciava a soffrirne. Peppedda, la serva, era stata quasi vecchia, scoperta da un piccolo possidente rimasto vedovo e si era sposata. Da allora era stato un susseguirsi di ragazzotte allegre, vivaci, sulle quali essa sfogava il suo rancore, così che dopo un poco se ne andavano. Le stanze non venivano spazzate più e un velo di polvere si stendeva sui mobili. Un giorno don Sebastiano si era scaldato il caffè, la sola cosa alla quale tenesse, e aveva sentito un sapore strano. «Questo caffè è di orzo!» aveva gridato, in modo che donna Vincenza lo sentisse. Era vero. O meglio, non era vero perché aveva semplicemente dimenticato di aggiungere il caffè fresco ai fondi ribolliti. In altri tempi, il suo rancore non le avrebbe impedito di arrossire fino alla punta dei capelli. Ora ascoltava i lamenti del marito con indifferenza, quasi con piacere. Era infatti accaduto che donna Vincenza, nella sua infinita miseria, si era resa conto che il tempo aveva lavorato per lei. Quella differenza di 10 anni che correva tra lei e don Sebastiano ora faceva sentire il suo peso e per molti segni il marito, pur così valido, mostrava il peso dell'età. In definitiva, lo scettro del comando passava a lei e lei se ne valeva per la più crudele vendetta, cioè mostrando di ignorarlo, non rispondendogli quando gli rivolgeva la parola, rifiutando i suoi approcci di benevolenza e di perdono. Il povero vecchio non capiva, si lamentava coi figli quando li incontrava, si sfogava con zio Poddanzu all'Ocoi, il quale scuoteva la testa e per rispetto non rispondeva. «Vincenza è una pazza», diceva, «e se continua così rovina la famiglia». Egli non si rendeva conto che per tutti giunge il momento in cui si sta al mondo perché c'è posto. E questo momento ora era giunto per lui. Il tragico era che i figli, quelli che erano rimasti e quelli che tornavano sempre più raramente nella casa comune, tenevano tutti per la madre. E il più ostile a lui era quel merdoso ultimo, come don Sebastiano lo chiamava nei momenti di ira. Quel Sebastiano che pure aveva trafitto il cuore della madre, rifiutando il viatico che essa con tanta cura gli aveva preparato. Ludovico, che aveva aperto finalmente lo studio di avvocato e conosceva le istituzioni del codice, diceva che quando due coniugi non vanno d'accordo si devono separare, ed era quello che solo poteva dire dal momento che aveva trovato nella legge quella certezza che gli sfuggiva nella vita e si sentiva naturalmente portato a scambiare la vita con la legge. Bisognava compatirlo perché era scapolo, e forse non aveva mai amato nessuno, né poteva quindi comprendere che l'odio rende il matrimonio più indissolubile dell'amore. Contro don Sebastiano erano naturalmente quelle povere tributarie di donna Vincenza che di quando in quando, ma sempre più raramente ormai, venivano per casa a prestarle i loro servigi. C'era però nella lunga giornata di donna Vincenza un'ora di gioia che il Signore non le aveva sottratto. Ed era quando, verso le 5 d'estate, di ritorno dalla scuola, veniva a trovarla la cugina con aria. Innamorata di Dio, essa rispettava Don Sebastiano, che di Dio aveva ai suoi occhi qualcosa, se non altro perché era uomo. Ma aveva per Vincenza, che per essere madre sentiva tanto più grande di lei, il trasporto che dà il senso della comune debolezza. Deboli entrambe perché donne e perché soggette naturalmente al dominio altrui. Gonaria veniva da una casa di dolore ed entrava in una casa di dolore, ma la sua semplice fede trasfigurava ogni cosa e rendeva lieta anche la cugina, che non parlava delle sue pene. Entrava senza bussare nel grande atrio, poi correva di filato sotto la pergola, dove sedeva quasi ai piedi di Vincenza, e subito le parlava della sola cosa che conoscesse, e cioè di Dio. Certamente Dio, di sopra la pergola, dalla quale pendevano i grappoli lattei, ascoltava questi discorsi che lo riguardavano direttamente e perdonava a Donna Vincenza se li seguiva con un sorriso. Quel giorno però Gonaria era venuta quasi di corsa dentro il suo abito nero perché aveva da dire cose più concrete alla veneranda cugina. Si trattava della notizia che da tanto tempo si aspettava e per la quale Vincenza aveva promesso una torta tempestata di cioccolato. Pareva ormai certo che in settimana il vescovo si sarebbe espresso per la nomina a canonico del fratello prete di Ciriaco. Il cappello col cordone rosso sarebbe entrato nella casa rifatta, cioè sarebbe entrato più Dio, perché non c'è dubbio che la presenza di Dio cresce con il crescere dei gradi. La sua gioia era immensa. Ciriaco si andava facendo sempre più esigente e insofferente in famiglia. Ce l'aveva specialmente con lei, perché pregava ad alta voce, o talora nel più profondo silenzio, con gli occhi volti al cielo, esclamava: «Dov'è Dio?» «Basta!» urlava: «Questa è una gabbia di matti!» Ma anche nel mangiare si era fatto difficile, tanto che lei, Gonaria, provvedeva a preparargli i manicaretti più delicati, i biscotti per il latte più leggeri dell'ostia consacrata. Ma che importava, quando sarebbe venuto il cordone rosso, ogni male si sarebbe dileguato e lei lo avrebbe servito con fede più grande, avrebbe fatto della sua stanza un altare. Ma anche Donna Vincenza era contenta. Questa famiglia costituiva tutta la parentela che le fosse rimasta. E lei ricordava il giorno preciso in cui avvenne la disgrazia e quelle fanciulle e quel fratello si trovarono d'un tratto nella più nera miseria. Ora tutto si era ricomposto col lavoro di questa dolce creatura che le sedeva ai piedi e non aveva mai conosciuto il male. Il canonicato di Ciriaco, sebbene egli fosse burbero e non curasse la triste cugina, forse ne aveva abbastanza di tante sorelle, coronava la faticosa resurrezione. E poi aveva anche lei bisogno di abbandonarsi a qualche sogno, e non avendone di suo, accettava il sogno di Gonaria. Perciò le rinnovò la promessa della torta coi cioccolatini. Chissà se Sebastiano, il figliolo ultimo che era uscito di casa per studiare, il figlioccio di Gonaria, sarebbe venuto per la festa. Egli non scriveva mai, non si sapeva che cosa fosse di lui, se non per i racconti dei compagni che tornavano, e lei non si trascinava più neppure alla porta, come aveva fatto per tanti mesi, ad attendere ansiosamente il postino. Il cordone rosso arrivò un poco più tardi di quel che Gonaria aveva detto, ma arrivò, e per 3 giorni la casa fu piena di gente. Vennero a cavallo i parenti di Galtellì, vennero da Dorgali le zitelle Mariani, padrone di quella villa favolosa con un'altana proprio sul mare che si chiamava La Favorita, dove una volta Gonaria era stata e ne aveva un ricordo di sogno. Vennero i canonici di Nuoro, si capisce, ma anche i parroci di Orune, di Oniferi, di Oliena e degli altri paesi vicini, e ciascuno portava chi il torrone, chi l'agnello, chi il pane lucente con le uova, come si fanno a Pasqua. Il parroco di Oliena arrivò, manco a dirlo, con una damigiana di vino, dicendo: «Col vino di Oliena puoi dir messa anche se è nero». E vennero quelle vicine che venivano ogni sera e furono le benvenute, anche se non portarono niente perché erano povere. delle sorelle Battistina e Tommasina, già schiave del loro male, si erano chiuse in un angolo, quasi al buio, perché temevano di dover stringere la mano a qualcuno. Ciriaco se ne stava seduto col cappello in testa, la tonaca filettata di rosso, i piedi sulla coppa del braciere che recava le ceneri dell'anno scorso, perché non lo si toglieva mai dalla stanza. Verso sera si annunciò il vescovo. Fu aperta la stanza che chiamavano salotto perché non entrava mai nessuno. C'erano i ritratti di quegli antenati che avevano conosciuto la ricchezza e c'era anche un grande ritratto di Ciriaco che Ignazia aveva appeso tra i quadri dei santi. Sui pochi mobili salvati dal naufragio brillavano campane di fiori finti con un bambinello in mezzo. Dalle finestre sempre chiuse filtrava un lungo raggio di polvere. Gonaria faceva gli onori di casa, servendo con mano leggera il rosolio preparato da lei e la torta di donna Vincenza. Ciriaco si era alzato dal braciere e il vescovo gli era andato incontro abbracciandolo. Si complimentò con lui dell'onore che aveva meritato e alla fine lasciò intendere che la cosa non sarebbe finita lì, anche se spetta solo al cielo di nominare i vescovi. Il canonico si schermì. Gonaria gli baciò l'anello 3 volte, poi tutto finì. Cominciava una nuova vita e bisognava prepararsi. La notte avvolse la casa e la isolò dal mondo. Gonaria sola vegliava, quasi sospesa tra cielo e terra. Dio si era avvicinato a lei. Dalla stanza del canonico gli giungevano di quando in quando gli echi di una tosse stizzosa, ma non ci fece caso. Fuori i giovinastri di Nuoro facevano la serenata a Maestro Manca, cantando «Portantina che porti quel morto». E Maestro Manca, terrorizzato, spalancava la finestra e bestemmiava alla terra e al cielo. Trascorsero i mesi. Il canonico continuava a svolgere la sua vita fra la chiesa e la curia, come faceva da prete. Mentre Giuseppina provvedeva al resto della famiglia, Gonaria aveva preso in cura il fratello e gli preparava i dolci leggeri che solo lei sapeva fare. Tutto sembrava avviato verso un lieto domani, ma la tosse non passava. Lo tormentava quando diceva la messa nel coro e infastidiva gli altri preti corpulenti che profittavano della monotonia del canto gregoriano per schiacciare un pisolino. Alla sera tornava a casa affranto, sempre più pallido, finché un giorno scoppiò la febbre. Nella casa delle 4 donne, ancora piena della festa, scoppiò la pazzia. Nessuna si faceva illusioni. Il terribile morbo che allora non si curava aveva preso Ciriaco alla gola, ma nessuna aveva interesse a confessarlo. Tommasina, che aveva la fobia dei microbi, si erse come un serpente, gridando che non era nulla, che lui, come lei, erano sanissimi, che nessuno dei Sanna era stato mai malato, che il padre, se non fosse stato quel disastro, sarebbe stato ancora vivo. Intanto, di nascosto, faceva bruciare in cucina i piatti dove lui mangiava, mentre Giuseppina, l'ape di casa, che avrebbe voluto strapparglieli dalle mani, ma non aveva la forza, piangeva. Battistina si era ritirata sempre più nel suo angolo oscuro e teneva le mani sospese che non toccassero nulla, ma non disturbava nessuno. Gonaria, che era in costante rapporto con Dio, parlava di un raffreddore trascurato e si faceva in 4 per soccorrere il malato. Il suo piccolo corpo si librava nella stanza in cerca di qualche sollievo. Gridava che il malato ogni giorno stava meglio, preparava i brodini concentrati che nutrivano senza dar peso allo stomaco. Per la prima volta nella sua vita, Ciriaco guardava con dolcezza questa alata sorella che aveva sempre creduto una matta, anche se sulle sue 93 lire al mese si era potuta riedificare la casa. Le accarezzava i capelli e le diceva che la prima uscita l'avrebbero fatta insieme, sarebbero andati in chiesa a ringraziare il Signore. Se ne stava come il giorno della festa nel piccolo vano tra la credenza e la porta a vetri che dava sul terrazzino, coi piedi sulla cappa del braciere, col tricorno sul capo, e tra un colpo di tosse e l'altro diceva le litanie. Le vicine non venivano più a trovare le sorelle perché avevano paura di lasciarsi scappare quello che tutti pensavano e dicevano. Infatti, quando il dottor Manca, quello che era un bravo medico se non era ubriaco, avanzò i primi sospetti, Gonaria gli si rivoltò come uno scorpione e lo cacciò via urlandogli dietro che era un beone, che Ciria costava benissimo e la febbre sarebbe passata con la buona stagione. La verità era che per Gonaria Ciriaco non poteva morire perché egli era prete, anzi canonico, cioè era la presenza stessa di Dio nella sua casa, la prova che il Dio per il quale aveva fatto della sua vita un cero ardente esisteva. Col suo fragile corpo ingaggiò una lotta feroce contro ciò che era tanto più grande di lei. Stava sempre accanto al suo capezzale, gli leniva la tosse con un decotto che lei stessa aveva preparato, lo imboccava. Nelle ore migliori gli leggeva il breviario che egli ascoltava guardandolo con gli occhi che diventavano sempre più grandi. Passavano i giorni e le notti in tutta Nuoro, in tutto il mondo ottenebrato, non c'era che la fiammella della sua assurda speranza. Lei non sapeva che i nuoresi avevano già condannato canonico Sanna e quindi irridevano alla sua fede. La morte doveva venire. E infatti venne, una sera, all'imbrunire, mentre lei gli parlava e gli diceva che l'anno venturo sarebbero andati insieme alla Madonna del Monte. Col filo di voce che gli era rimasto le chiese perdono e voltò la faccia dall'altra parte. Il contatto con la vita cominciò subito, perché lei voleva il capitolo per i funerali, che era stato sempre di diritto per i canonici, ma prete Medde, che era l'economo della compagnia, le disse che avevano deciso che nessun funerale dovesse essere più gratuito e la invitò a versare un acconto per le spese, che non erano poche. Dove trovare i soldi, quando i pochi che erano rimasti Tommasina li aveva fatti sparire perché erano infetti? Mandò a chiedere da Donna Vincenza, ma Donna Vincenza le rispose che non facesse pazzie e non consumasse i danari in ridicole pompe. Basta. In qualche modo Ciriaco fu seppellito e allora, quando egli non fu più là, nemmeno morto, a tenere a freno le sorelle, si scatenò la follia di Tommasina. Quei microbi che essa aveva tenuto lontani con mille accorgimenti, non stringendo la mano a nessuno, non girando le maniglie delle porte se non con un panno che teneva sempre in tasca, evitando persino di lavarsi la faccia con l'acqua del rubinetto che veniva chissà da dove, erano entrati vittoriosi in casa e avevano portato la morte. Ce n'erano grandi come buoi che scorrazzavano per la stanza, ce n'erano piccoli come scorpioni ed erano i più paurosi, ce n'erano di neri, di rossi, di violetti e il suo occhio li fissava con le pupille dilatate. Anche Battistina li vedeva, ma si limitava a farsi schermo con le mani scheletrite, quasi rassegnata alla fine. Ma Tommasina, che era sanguigna, non intendeva perire senza combattere. Cominciò con l'impiastricciarsi le mani di sapone per ungere il tavolo da pranzo, specialmente nel punto dove Ciriaco soleva mangiare. Poi passò all'alcol, ai terribili disinfettanti che ammorbavano l'aria e le screpolavano le dita. Poi arrivò al fuoco. Accendeva pezzi di giornali e ne strofinava il pavimento. Si bruciava le suole delle scarpe. Avrebbe incendiato la casa se, come avviene in questi malati, non avesse avuto il senso del limite. In breve diventò sporca per voler essere troppo pulita, perché non si asciugava mai, inzuppava gli abiti 10 volte nella stessa acqua. Giuseppina, l'ape di casa, piangeva sulla rovina della famiglia, sulla vergogna di fronte a tutta Nuoro. Getta Dommos, distruggi case, le diceva tra il pianto convulso, ma era come parlare al muro. Quello che lei non arrivava a comprendere era come tanto dolore si potesse accumulare in un piccolo punto del mondo, come tanta pena potesse travolgere le creature insignificanti che esse erano. Quando Ciriaco fu portato via e le sorelle fuggirono dalla camera appestata, Gonaria si accosciò in un angolo, con gli occhi fissi sul letto che il vuoto aveva reso immenso. Le pareva di vedere le forme impresse in un sudario. Decise che quello era un tempio e nessuno sarebbe più entrato nella stanza dove si era consumato il sacrificio. Il suo compito era ormai quello di adorare il Dio che viveva nascosto nella stanza, di impedire che qualcuno la contaminasse, la facesse diventare quello che era, una casa destinata ai vivi. Rassettò il letto, distrusse le medicine che erano rimaste sul comodino, spolverò il cappello col cordone rosso e lo ripose nell'armadio, adagiò il breviario sul cuscino, poi uscì in punta di piedi, chiuse la porta a due mandate. Appena si trovò fuori, si sentì precipitare in un baratro. Era rimasta senza Dio. Dio era rimasto là dentro, in quel letto vuoto, in quel cappello col cordone rosso che pendeva da un uncino, in quella morte senza resurrezione. Aveva amato il creatore come una creatura e adesso la sua creatura si rivelava un fantasma, o peggio una realtà crudele. Improvvisamente sentì la inverosimile piccolezza del suo corpo, la vanità delle sue mani congiunte nella preghiera. Le venne in mente il sorriso della sua grande cugina, Vincenza, quando lei le parlava di Dio. Come lei, ma per un'altra strada, Vincenza aveva sacrificato la vita e solo per averne in premio un fisico poco men che deforme. Pensò per un momento di riaprire la camera di Ciriaco, ma ebbe l'istintiva paura che Dio se ne fosse andato anche di là. Entrò nella stanza che si chiamava da pranzo e credette di essere allucinata. Tommasina girava intorno al tavolo con una carta accesa. Battistina levava le braccia al cielo inutili come moncherini. Giuseppina piangeva. Era passato un giorno, un mese, un anno da quando si riscosse nel lettino dove l'avevano posata. Era passato l'eterno. Ascoltò attentamente, ma non udì il colpo di tosse dalla stanza di fronte. Cercò distinto nella tasca dell'ampia gonna e sentì la massa di una chiave. Allora balzò dal letto, entrò nella stanza da pranzo e trovò Tommasina che dormiva accoccolata sopra una sedia per non poggiare i piedi per terra. La sedia vicino al braciere dove sedeva Ciriaco in attesa della morte era sempre al suo posto e non solo era vuota, ma mezza bruciacchiata. In quel preciso momento si rese conto che Dio non esisteva. Dio non arrivava a quel piccolo borgo dove l'avevano seminata. Non arrivava alla sua piccola persona. I nuoresi che vivevano tutti senza Dio avevano ragione. Solo che lei lo aveva avuto in casa, prima prete, poi canonico, e in casa lei era morto. Restava quella stanza chiusa che non si sarebbe riaperta mai più. La stanza appunto dove Dio era morto, o forse, poteva illudersi che ancora viveva. Ma intanto che fare? Lei non poteva morire, perché le sue 93 lire ora erano tutto quello su cui le disgraziate sorelle potevano contare. Doveva tornare a scuola. Ma a insegnare che cosa? Se a quelle fanciulle non aveva parlato che di Dio, anche quando spiegava l'aritmetica e la storia, non le passava per la mente che Dio fosse la sua sofferenza. E anche la sofferenza e la pazzia di Tommasina e Battistina, o la stessa malattia e la morte di Ciriaco. Eppure, lo aveva letto sul libro, lo aveva detto tante volte per dare speranza alle allieve, fino a farsi irridere e biasimare dal nuovo direttore scolastico. La prima volta che uscì per andare al convento, prese la falda della prima gonna, allora se ne usavano molte, a più pieghe, del resto anche oggi ci sono le sottogonne, e se la rovesciò sulla testa, onde non rimase allo scoperto che il viso di cera con gli occhi ancora più brillanti. A scuola le ragazze le avevano fatto trovare un gran fascio di fiori di campo che ella si strinse al petto trattenendo le lacrime. Poi parlò e parve quella di prima, la maestra che avevano conosciuto e amato le madri e le nonne delle fanciulle che sedevano ora sui banchi. Solo non volle che alcuna l'accompagnasse a casa dopo la lezione, né entrò da donna Vincenza, che non vide mai più. Se non si muore, si vive. E questa verità, che sembra ovvia, è invece gravida di conseguenze, perché la vita trasforma tutto. Non c'è nulla che resista alla sua implacabile volontà. Negli anni che seguirono, bisogna che mi affretti alla fine, poiché poco è il tempo che mi rimane, morì quella che sola non doveva morire, Giuseppina, l'ape di casa. Se ne andò così per una banale influenza e la fine fu tranquilla, perché diceva che non sapeva perché era venuta al mondo. Questo fatto, che doveva portare altre rovine, fu invece la salvezza della casa, perché improvvisamente Tommasina cominciò a star meglio. Cominciò a dire che non era vero nulla, che tutti erano sanissimi e lei era la più sana di tutte. E infatti cominciò a ingrassare, riprese la sua tinta sanguigna, smise di disinfettare e di bruciare. Solo quando veniva qualcuno si precipitava a stringergli la mano prima che gliela stringessero gli altri. In compenso riprese l'antica mania di grandezza. Noi siamo ricchi. Noi siamo ricchi.